vita ti darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partia mio ben da qui. Cambierò tua sorte, ma non torni più forte. Vieni, vieni, là ti darem la mano. Mi dirai di sì, partia mio ben da qui. Vieni mio ben diletto, io cangerò tua sorte. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorare bene, dove notte siamo. Andiamo, andiamo, mio bene, a ristorare bene, dove notte siamo. Andiamo, andiamo, mio bene, andiamo, le pene a ristorare. Oh!